Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ore 17:30. Ieri è fallita Lehman Brothers. Lunedì nero. Oggi, martedì 16 settembre 2008, non è meglio. Ora basta. Fra un po' vado a casa e che arrivi la notte presto. Ciao, mi chiamo Carlo, vivo a Piacenza, ho 49 anni, sono sposato e ho una figlia che si chiama Elena. Faccio il commerciale per una compagnia di assicurazioni e sono laureato. Le 16:07, quasi 8, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e il programma si chiama Voi siete qui. È un programma in cui ogni giorno raccontiamo una storia che non prendiamo a caso, è una storia che chiediamo alle persone che ascoltano e che hanno voglia di raccontare un pezzo della loro vita. Una pagina, noi lo definiamo il racconto che vi racconta, una storia che racconti qualcosa di voi, una storia che vi è realmente accaduta, un episodio della vostra vita. La inviate a Voi siete qui, @radio24.it. Da quel racconto noi ci costruiamo una puntata. Ecco perché la puntata di oggi è dedicata tutta alla storia di Carlo, che è una storia che parla di un'estate che finisce, che parla in realtà di una stagione che finisce, con tutte le metafore che volete, infilatecele dentro. Parla di quando l'estate da ragazzi la si vive in un modo che è diverso e a un certo punto ci si accorge che quell'estate lì non tornerà più. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma, basta che cliccate su mi piace e ci potete accedere. Voi siete qui, Radio 24, dove già in diverse persone hanno scritto qual è stata l'estate migliore della loro vita, quella che si ricordano con più gioia o quella che in assoluto è stata l'estate più bella. Chiara scrive, Andrea scrive 1984, Rimini con gli amici di sempre. Rodica o Rodizza, non so come si dica, il 2010, però non ci scrive il perché, quindi è come non saperlo. Di fatto, l'estate più bella della vostra vita, oggi nel giorno in cui inizia ufficialmente l'autunno, 21 settembre 2012, l'estate è finita ieri, anche se giustamente qualcuno, mi piacciono sempre gli ascoltatori precisi, mi scrivono. In particolar modo Andrea. L'autunno inizia il 23 di settembre, non il 21. Non cadete anche voi in questo errore. Poi, se volete andare su qualche sito di astronomia, lì c'è scritto l'ora e il giorno. È simpatico Andrea, perché ti dice. Allora, non è il 21, è il 23. Poi, se volete, fate una cosa, andate su un sito di astronomia. Ma già che ci siamo, ve lo dico io, ok? Già che ci siamo, l'ora e il giorno esatto del solstizio d'autunno, in base alla posizione del sole, quest'anno sarà il 22 di settembre, cioè domani, alle 14:49, UTC. Benissimo, ora che sappiamo che oggi non inizia l'autunno ma finisce l'estate, ancora di più, l'estate più bella della vostra vita oggi nell'ultimo giorno di estate del 2012. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook o via mail, anche voi siete qui, @radio24.it. La storia di oggi, la storia di Carlo, parla sì di un'estate che finisce, ma parla molto di più. Parla di questa stagione che tutti quanti viviamo, che a un certo punto si interrompe ed è in teoria spensierata, è allegra, in teoria in realtà, perché poi non lo è mai così spensierata l'infanzia e la giovinezza, se lo sembrano probabilmente da lontano. E sono molto curioso di parlare con lui perché sono convinto che racconti molto di più di quanto racconta questa storia, che racconta di estate, di mare e di barcavela. E oggi ve lo do già, in anticipo, proprio perché è l'ultimo giorno di estate, però è venerdì, quindi abbiamo il fine settimana davanti per farlo sbollire. Leggo un pezzo che, devo dire, appena ho cominciato a leggere il racconto di Carlo mi è venuto in mente. È un pezzo tratto dal romanzo La spiaggia di Cesare Pavese, che è uno dei romanzi meno conosciuti di Pavese. È un romanzo breve, un racconto lungo, che parla di questo tizio che casualmente vive a Torino, casualmente fa il professore e viene invitato proprio in Liguria, dove si ambienta tutta la storia di Carlo. 349-238-6666, l'estate più bella della vostra vita. In questo periodo nero, in cui scrivere mi sta tenendo in piedi, ho riaperto cassetti della memoria in cui rivivo momenti delle mie estati, passate nel Ponente Ligure. Diano Marina, agosto 1978. Ho 15 anni. Oggi giornata in mare con Roberto che ci allena. Tutte le barche disponibili sono occupate. Flying Junior, laser e 420. Siamo a fine agosto e il tempo è meraviglioso. Ponente disteso sul Capolandini. A furia di bordeggi siamo usciti molto al largo. Il mare è di un blu intenso. Ci fa uno strano effetto. Essere lì però tutti insieme, con il gommone di appoggio, ci rassicura. Ormai sono quasi le 7 e cominciamo un lasco largo verso casa, a chi arriva prima. Arrivati al capo, ultima planata sul mare piatto fino allo scivolo del club, dove issiamo le barche alle 8 di sera passate. Che giornata magnifica. Laviamo tutto e rimessiamo. Le luci della passeggiata sono già accese mentre torno a casa, felice. Da grande vorrei fare il velista di professione o il biologo marino in giro per gli oceani. Dopo cena ritrovo al porto per la lezione di teoria e commento dell'uscita in mare. Roberto ci spiega un sacco di segreti e noi ascoltiamo ammirati i suoi racconti di mare e di regate internazionali. I trucchi dei campioni, i loro tic, le virtù che li differenziano l'uno dagli altri. Finita la lezione, si chiacchiera sulla passeggiata e poi a nanna, già pensando all'uscita di domani. Ho iniziato ad andare a vela a 11 anni in occasione di una manifestazione che si tenne appunto nel paese in cui io ho passato tutte le vacanze da bambino, che è un paesino della Liguria che si chiama Diano Marina. Ci fu un campionato europeo, io da bimbo andavo sempre a vedere gli equipaggi quando arrivavano. Da lì decisi di iscrivermi a un corso di vela e quindi poi ho continuato a andare a vela. Settembre 1977, Celle Ligure. Siamo venuti in trasferta a fare regate zonali con Lulli e Checco. Io e Checco abbiamo uno strale bianchi e cecchi coperta di legno, molto bello. Ce l'ha preso il papà l'estate scorsa, dopo i campionati europei a Diano, dai fratelli Fazio di Genova. L'abbiamo chiamato Ginkgo biloba, il nome di una pianta tropicale. Lulli invece ha venduto il fin ed è passato al più comodo laser. Arrivati a Celle abbiamo scaricato le barche per il giorno dopo. Stasera dormiamo a Genova da Lulli, che abita in via Casaregis. Celle Ligure è un bel golfo, più piccolo e raccolto di Diano. Non c'è sabbia, sembra un posto dal passato elegante di inizio secolo, anche se ora sembra in leggera decadenza. Ceniamo al club dei nati stanchi, pansotti al sugo di noci e varie di secondo. Mi piace stare con i grandi nel mondo della vela. A casa di Lulli la sera vediamo alla TV il discorso del nuovo Papa Luciani, appena eletto. Dopo il discorso Lulli fa una smorfia di dubbio. Andiamo a letto, domani regate. Genova è la città in cui mio padre ha studiato e io la sento un po' anche mia. Diano Marina, Imperia, luglio 1976. Le cicale fanno un rumore assordante e la via saponiera è deserta. I villeggianti sono al mare e i palazzi dietro la ferrovia sonnecchiano nella calura. I muretti a secco segnano la via verso la collina tra fichi selvatici, ulivi e siepi di pitosforo. Poi c'è via Giaiette, la casa del signore Eugenio che da bambino mi ha insegnato a pescare. Il rumore dei freni del suo gitan quando scendeva al mare nel carruggio che dalla Aurelia porta a Piazza Timone Rotto si sentiva fino a casa nostra ed era un richiamo fortissimo per me. Passavo i pomeriggi a guardarlo e a pescare con lui sul moletto. Salendo poi c'è via Casa Rossa, dove c'era un campetto da calcio tutto terra e pietre. Che batosta ci diedero i locali quell'anno che con Carlo in porta pensavamo di essere dei fenomeni. Ora forse non c'è più. Ci avranno costruito dei palazzi. C'era un campo con degli ulivi selvatici e un gozzo rimessato, lì sotto, su cui giocavamo quando stufi della folla in spiaggia cercavamo nuovi posti all'interno. Sono i luoghi dell'infanzia in cui ti restano dentro per tutta la vita, in cui vivi le tue esperienze più belle di libertà, di natura, di mare, di amicizie, insomma, che poi ti ritrovi e ti ritrovi anche a ricercare a volte quando diventi grande. Diano, 2 ottobre 1977, ore 21:45. L'estate è proprio finita e siamo rimasti in pochissimi del gruppone che eravamo al Club del Mare in questa estate fantastica. Abbiamo sgobbato come matti per smontare le barche della scuola vela i gommoni, le cabine, gli alberi, le vele, i motori e rimessare tutto nei box del porto. Ma siamo orgogliosi di far parte di una elite che ai primi di ottobre è ancora al mare. Ci sentiamo dei locali. Sono qui dal 17 di giugno e i miei capelli sono biondi dal sole, come pure le sopracciglia. Parlo ormai con cadenza ligure. Non voglio tornare nella grigia pianura dove mi aspetta la prima liceo scientifico. Abbiamo finito di lavorare al porto e stiamo a ciondolare sulla passeggiata ormai deserta. Ma non ci facciamo caso, perché il nostro gruppo ci basta. Guardo il cielo e vedo la luna tra le nuvole che corrono, spinte dal vento dell'autunno. Ogni tanto si vedono anche delle stelle. Sono in pace con il mondo e vorrei che il tempo si fermasse. Mi ricorderò per sempre questo momento e quel cielo di luna, nuvole, stelle e gli ombrelli dei pini marittimi con il loro profumo. Fisso lo sguardo in su per fissare questo momento. Chissà se me lo ricorderò ancora a 40 anni. Le giornate si sono molto accorciate e alle 7 di sera fa già buio. Ma dopo l'estate accecante passata sempre in mare, con il riverbero del sole e delle vele, questo cambio di luce che rende tutto più intimo non mi dispiace. Anche se so che l'autunno, l'inverno e la primavera, fino al prossimo giugno, saranno interminabili. Forse ci si ritrova tutti al Salone Nautico di Genova a metà ottobre per una rimpatriata. Poi ci sarà il Ponte dei Morti, ultimo ponte prima dello stacco fino a Pasqua, che speriamo sia calda e non di pioggia e vento. Dopodomani chiudiamo casa e rientriamo. Buonanotte estate. Semplifico. Tu nasci da padre che ha fatto i soldi con la fabbrica. Il suo ego è fuori controllo e autoreferenziale, perché i dati gli danno ragione. Nel frattempo lui vive in un ufficio e tu a casa, con le tate. Tua madre, per non impazzire, si organizza una vita sua. Chi si dà alla canasta, chi allo shopping, chi alle dame di San Vincenzo. Mia madre si dà alla scuola. Là fuori c'è un mondo fatto di gente normale, che ha fame e grinta da vendere. Gente che non ha avuto beni materiali in eccesso, ma tante sicurezze in famiglia. Gente normale, che non ha terrore del mondo. I can't see anyone else smiling. Are you sure? Sarà banale, ma l'estate più bella della mia vita è stata quella del 2009 ad agosto, perché è nata mia figlia Bianca. Ciao Franco. 349-238-6666. Non mi sembra per niente banale, Franco. L'estate più bella della mia vita, quest'ultima. Ho scoperto che se i Maya hanno torto, a gennaio divento padre. Ciao Caccia, i Subsonica non sono dei tamarri. Questa non la... Una volta avevo detto che i Subsonica non erano dei... No, non avevo detto... Avevo detto che... avevo detto che forse... No, non avevo detto così, non mi pare. Vabbè, chi se ne frega. 349-238-6666. C'è qualcuno che ce l'ha fatto ricordare che l'estate più o meno sta finendo, ed è Carlo, e me l'ha ricordato a luglio con questo racconto. Pronto Carlo? Pronto, eccomi. Ciao, ciao, buongiorno, Matteo. Come stai? Bene, grazie. Tu? Benone, grazie. Ti dicevo, io l'ho letto a luglio il tuo racconto, era appena finito il programma e mi stavo guardando tutte le storie che erano arrivate, e quest'ultima parte, quella in cui parli della fine dell'estate, mi ha dato proprio quella sensazione lì, no? Di una stagione che finisce e con essa diverse cose. Quanti anni avevi nel 77? Nel 77 avevo 14 anni. E avresti cominciato il liceo scientifico, cosa hai fatto? Classico? E poi cosa hai fatto da lì in avanti? Ho fatto l'università, ecco, il mio commercio e lavoro. L'estate è finita veramente, nel senso che poi non ho fatto un lavoro sul mare, ma ho fatto un lavoro di terra a Milano, Piacenza, il nord Italia, lavoro per una compagnia di assicurazione, quindi tutto tranne il mare, purtroppo. E che cosa fai esattamente per la compagnia? Cioè, immagino che ci siano tante cose, no, che si possono fare. Uno di quelli che si chiamano area manager, un capo area commerciale, giro per il nord Italia e seguo le agenzie che vendono i prodotti. Le assicurazioni hanno accusato, le compagnie hanno accusato la crisi che tanto conosciamo? Abbastanza, sì. ma... di ritorno anche noi abbiamo subito. Ma in quali termini? Nel fatto che uno non fa... Non... In termini di calo di fatturato, la gente ha meno soldi da spendere, quindi si assicura di meno. Ma assicura di meno quello che può non assicurare, sì, ovviamente. Sì, esatto, la macchina è obbligata. E vabbè, evidentemente. Quindi che cosa? La casa, le persone, gli infortuni, la sanità. Senti, un bel chi se ne frega, perché andiamo, esatto. Andiamo al punto. Premetto, i negrita non sono dei tamarri, anch'io sono d'accordo. No, non i negrita, non erano i negrita, erano i subsonica. Neanche loro lo sono, perfetto, siamo d'accordo. Senti, di tutto il tuo racconto mi ha colpito chiaramente l'ultima frase. Come hai visto era un po' lungo, mi piaceva molto però, quindi l'ho smontato e l'ho rimesso un po' insieme. Grazie a te. La parte in cui tu dici semplifico. Sì, perché questi sono brani presi da una specie di diario che ho tenuto, elaborato un po' nei lunghi viaggi in macchina che faccio per lavoro, per cui a volte mi focalizzavo su alcuni ricordi che ho voluto fissare sulla carta. Poi ci sono delle considerazioni generali che si innestano e si concludono proprio in quelle frasi finali, no? In cui riguarda un po' la fine della tua estate gioiosa e un'estate invece è un autunno che comincia, che è un autunno di responsabilità. Quindi scusami Carlo, noi possiamo dire con una certa serenità anche che tu hai avuto un'infanzia felice. Fantastica, non felice, e per questo mi ritengo fortunato. Senti, invece questa, diciamo, la domanda a cui se vuoi puoi rispondere, se non vuoi no, e riguarda il rapporto col proprio padre, no? Tutti col proprio padre hanno un rapporto che è di amore molto profondo, ma anche molto conflittuale, a volte certo. Più sbilanciato da una parte e a volte più sbilanciato dall'altra. Si percepisce che c'è questa forma di grande rispetto e grande stima nei confronti della figura di tuo padre e poi dall'altra invece anche una forma di critica. E questo è il prezzo di chi ha avuto delle infanzie molto felici, però dei genitori magari non troppo presenti, no? E quindi perché impegnati in altre cose. Tutto un prezzo, si dice. Tuo papà è ancora vivo? Sì, ha 90 anni, sta benone. Adesso abbiamo recuperato benissimo il rapporto. Ok, chiaramente era questa la domanda. Come dicono i psicanalisti, abbiamo ucciso il padre. Ok, e quindi è ancora vivo. Sì. Senti, l'ultima cosa, sempre riguardo a quella frase lì, e poi ti devo salutare. Questa cosa che là fuori c'è gente normale che non ha terrore del mondo. Che è una frase che c'ha un sacco di roba dentro. Sì, pesante, però non vorrei intristire troppo. Ok, però semplicemente ci è capitato, no, mi metto in mezzo, ci è capitato di avere terrore del mondo, Carlo? Certo, sì, spessissimo, poi lo superi, e scrivi le cose dei momenti bellissimi nei momenti peggiori forse, no? Certo. Quindi far male a volte serve a scrivere. Senti, fai ancora regate? Pochissime, oramai... Il laser è in giardino girato sul carrello, mi guarda ogni tanto quando vado. Vivo in campagna, sto benissimo anche qua peraltro, in un paese che è lontano dal mare ma sulla strada che da Piacenza va a Genova. E quindi quando vedo il cartello Genova potenzialmente mi sento già là. Carlo, ti ringrazio per il tuo racconto e ti auguro un buon autunno e un buon inverno, sperando che, come dici tu, l'estate arrivi presto. Che arrivi presto, grazie, ciao. Ciao, abbraccio. Grazie mille, ciao. E buona giornata. 349-238-6666. Ciao Matteo, sono Adil e per me l'estate inizia domani perché torno in Marocco. Un saluto, ciao a tutti. È una foto scattata in piena estate quella che ci ha mandato Carlo e che trovate sul sito di Radio24, alla pagina di Voi Siete Qui, insieme a molto altro, insieme ai brani che andiamo in onda, insieme alla mappa che continuiamo a comporre, insieme anche alla parola del dizionario che sentite tutti i giorni dopo questo che sto per fare, cioè descrivervi la foto di Carlo. È un ritratto, è lui che è proprio in posa per essere fotografato, però ha una bella faccia per essere in posa, ha un bel sorriso, ha degli occhiali un po' squadrati, ha i capelli corti, non mi ricordo quanti anni ha detto di avere, ma ne avrà una cinquantina mi pare. Ha su una polo bianca con il logo dell'assicurazione per cui lavora e potrebbe essere il giardino di casa quello alle spalle, ma se si guarda bene in realtà sfocata alla sua destra c'è la bandierina di un campo da golf. Estate. La seconda stagione dell'anno, compresa nell'emisfero boreale tra il 21 giugno e il 23 settembre e in quella australe tra il 21 dicembre e il 21 marzo. Figurativo, passeggero ritorno di vigore e di esuberanza nella tarda età. Etimo, dal latino estas estatis. L'estate più bella della mia vita per Marco è stata il 2009, appena laureato, concerto dei Killers. Con conquista della bacchetta di Ronnie Vannucci, che immagino sia il batterista dei Killers, e poi lungo, lungo viaggio con tappe a Palermo, Catania, Cosenza e Napoli, di amico in amico. E poi ancora c'è un messaggio di... dov'è? Sul profilo Facebook, Antonio. Vabbè, comincia un po' generico, ogni stato che se ne va è bella, eccetera eccetera, però poi in particolar modo lui dice: l'estate, non ricordo l'anno, ero ragazzino, tra gli 8 e i 10 anni. Ho un ricordo molto vivo delle partite a pallone giocate in mezzo a una strada. Siamo in un paese del Gargano, con le porte rappresentate da due massi di pietra. Vi lascio immaginare: primo, il gioco si fermava ad ogni passaggio di macchina; secondo, si litigava per decidere se un tiro era gol oppure era andato alto, perché esisteva solo una linea immaginaria ad personam in ognuno di noi. Terzo, spesso le partite si interrompevano a causa della rottura dei vetri delle case che sfortunatamente si affacciavano sul campo di gioco. 349-238-6666. L'estate che avete passato e che ricordate come l'estate più bella della vostra vita, oggi che è vero, non finisce, o meglio, non comincia l'autunno, ma finisce l'estate. L'autunno comincia per l'esattezza domani alle 14... aspetta, 14.49 UTC. UTC che sta per... uno che lo sa, Margherita, per piacere, velocemente. Oppure 349-238-6666, sta per United Time Corp... Coordinate. Coordinated Universal Time. No, chi è che l'ha chi è che ce l'ha detto? L'ha detto Margherita. Ma quindi è Universal Time Coordinated, giusto? Tempo universale coordinato. Ok, 349-238-6666. Poi mi spiegate meglio, altrimenti la trasmissione la facciamo insieme. È arrivato il momento di leggere uno di quei pezzi che, diciamo, io leggo quando sono un po'... quando proprio ho voglia di malinconirmi un po'. Avete presente? So che ci sono donne che guardano film quando hanno voglia di piangere. Scelgono dei film apposta e li guardano. O tutti o quel 20 minuti lì per piangere un po'. Io quando ho voglia di immalinconirmi un po', ma immalinconirmi in maniera sublime, leggo Cesare Pavese. E in particolar modo questo pezzo, che è tratto dalla spiaggia, come dicevo in apertura, che è un romanzo piccolo, definiscono minore, ma mi sembra una boiata definirlo minore, è stato pubblicato nel 42, ed è la storia di questo professore che sta a Torino ed è un po' cosa faccio, vengo, non vengo, vengo e sto in disparte, che poi in sostanza era più o meno autobiografico. Questo professore viene convinto ad andare dagli amici in Liguria, a passare un'estate in Liguria, ripeto, siamo negli anni 40 più o meno. Lui è un po'... Non è proprio uno che si arriva in spiaggia e si butta in acqua. C'è la moglie dell'amico, c'è una piccola crisi tra i due, ci sono altri personaggi abbastanza interessanti. Insomma, se non avete letto, leggetevelo, è un romanzo di Pavese, questo già la dice lunga. C'è però un pezzo che è verso la fine, che è esattamente il momento in cui l'estate comincia a finire. E avete presente, come dice Paolino Corleone, quando si chiudono gli ombrelloni, si tirano sulle sdraio? Ecco, qui non è esattamente lo stesso. Però da tutto quello che c'è intorno arrivano segnali che l'estate sta veramente finendo. Quel pomeriggio, quando Guido fermò la macchina al cancello, io ero con Clelia che ci salutavamo. La guardavo girare per le stanze e fare pacchi, e la cameriera correva su e giù. Di tanto in tanto Clelia emetteva un sospiro e veniva alla finestra dove ero appoggiato, come una padrona di casa che fa il giro degli ospiti e ad uno, fra gli altri, riserva gli sfoghi della stanchezza e della noia. «Contenta di tornare a Genova?» le chiesi. Con un sorriso distratto feci di sì col capo. «Ad Oro piacciono i viaggi improvvisi», dissi. «Speriamo che sia l'ultimo». Le dissi che avrei lasciato anch'io la spiaggia. Tornavo a casa. «Mi dispiace», disse Clelia. «Anzi», le risposi, «ero contento d'avere trascorso con lei la sua ultima estate di ragazza». Per un attimo Clelia ridivenne quella dei giorni andati. Si fermò col capo levato e disse piano: «È vero, che sciocca. Si deve essere molto annoiato, poverino». Partirono a metà pomeriggio, con Guido che scherzava. Ma siccome Clelia si mostrò subito svogliata, credo che smettesse. Mi dissero di aspettarli perché contavano di tornare entro qualche giorno. Io li vidi allontanarsi con una certa tristezza. In fondo mi spiaceva che Doro non mi avesse chiesto di fargli compagnia. La mattina dopo ero con Ginetta sulla spiaggia e, parlato un poco di Clelia, non sapevo più che cosa dirle quando certi giovanotti vennero e la portarono via. Gironzolai tra gli ombrelloni. intravidi la Nina e voltai al largo. Mi aspettavo Berti da un momento all'altro. Invece, mentre tornavo sul viale, incontrai Guido. Aveva portato allora la macchina in rimessa. Mi disse che gli sposi si trattenevano a Genova. Il loro medico era assente e Clelia aveva un poco sofferto del viaggio. «È seccante», concluse. «Quest'anno scappano tutti». This summer's riding for a fall. Universal Time Clock, ci scrive un pilota, è il significato di UTC, ma qualcuno ci chiarisce, e questo quantomeno è esaustivo, l'UTC non cambia a seconda della latitudine, è la stessa in ogni punto geografico della Terra e corrisponde all'ora di Greenwich. Sono le 16:43 minuti e oggi è venerdì 21 di settembre, che finisca o meno l'estate oggi, finisce questa settimana di Voi Siete Qui, in cui abbiamo parlato di peluche, della loro storia, abbiamo parlato di UFO, avvistamenti di UFO, e abbiamo anche smentiti in diretta, era un super bolide quello che aveva visto l'ascoltatore. Abbiamo parlato di italiani che insegnano la lingua agli stranieri e di sogni che si infrangono, speriamo di no, che sono quelli che abbiamo costruito, magari case che abbiamo comprato e costruito in cima dei poggi. E si chiude anche con la storia, e soprattutto con la storia di oggi, che parlava di estate e di stagioni che finiscono. La storia di oggi era quella di Carlo, e anche lui da oggi è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Daniele Previtali e lavoro in una piccola società di e-commerce. La storia di lunedì è la mia, che parla di come si possa partire da un episodio casuale e apparentemente senza importanza per poi trasformarlo in qualcosa di più gratificante. Questa è la mia storia e io sono qui.